Non sono tanto bello, no. Sono proprio buccio russo professionale, devo coprirlo come sono fatto, però cazzo, sono andato io. Un mix raffler, non ti dici se vi pago te 1500 euro o una mise. Come probabilmente se lasciate caricare un catalogo, se no devo andare a amico mio, sopra. Se devo andare a amico mio, uno che si impazza, sta un giattero che esce, sa cosa della Florida. Come dice la ciappo in videoconferenza, Belunaro, a me domandare. Comprese, mandami un catalogo per Toro, Belunaro. Cazzo, mi sono bello, me. Ah, quando vi aiuto, cazzo, mi ha fatto vedere questa foto, secondo me, tra la bisciù, bubu. Ah, c'è allucinante, cazzo. Tutto rotativo, tutto rigorosamente rotativo. No, non manco un binario slider, non esiste un slider qua. Non le compro, compri se non le compro, non mi interessa, no. Però no, è se sdoppo, no, dichiaro il sdoppo, ma capite di TTP rotativo S, come capite come è fatto? Tutto rotativo, non binare slider, nessun luogo. Allora, tu hai gusto. Pensa però che è un mix della sospensione puro. Interfacciabilitate alla sua console separata già, che probabilmente Sabina la suina la tua, devo la puito, te bagliata, poi tutto ciò con il 3D, le potete collegare già console slider, come non dico mentre Sabina. Dico solo che su più minore costa 1500 euro, so, su questa garanzia, è una garanzia di decanno, so, e oltre, pure se ci faccio un po' meglio, compreso, tutto si ribesse, nulla, e passare un po' questa armonizzata, la monitorata che entra in funzione è micidiale, devo dire che nessuna cosa, 7-0, ma... Guarda, l'ha proseguito poi stacco, ma l'ha proseguito umanamente. Dopo un plesso il circuito e poi vedo un maghetto, nonostante l'esperienza, ha poi vedo un maghetto a cruciare a fondo e insomma. E boh. Professionale che hai, voi non so se bacca cose casalingo, io ti dico le cose che bisogna interfacciabile da tutto, addirittura si ha compreso bene, si proprio, non siamo bene compreso, so, ma da una base che si stacca completamente, tu proprio lui che alza, da noi modulare, e capo ne sa tra base, si di chi cuscia tra base che gli canta sul slider. che top del top come te sono non binala, non esce subito favorito, addirittura c'ho Pink Floyd e Naffler come te mixer, e c'ho finale sono tutta trigger, no. Però come te mixer e Naffler non c'ho cosa a fare. Sono il numero uno. Basta di provare, ho detto una cosa nel pieno, poi ho preso la via, poi ho legato un mega schermo, un baracasetti, un archivudi, che abbiamo problemi di alimentazione, un LCD, no? Quando l'ha preparato, l'ha posizionato, l'ha portato giù, l'ha attaccato con un DVD, no? E il corso giù via da su canale audio, no? Su mixage audio. E ha fatto andare a tempo tutto quanto, no? Questo tipo che fu di sonende, Eric Clapton, no? A portare la chitarra Eric Clapton, eh? Ha fatto andare la musica a tempo su questa chitarra che vi fu, no? L'ha fatta passare a tempo, perfetta, cazzo, ma devo chiedere. mix degli G, tutto su bassa frequenza, casomai bassa potenza. Ma c'è niente come, non mi che badi ne cazzo, devo risolvere tanto, devo risolvere di un mixer, boh. Tanto, ma mixer su una mano, bisogna prendere addirittura una lavoro valvolare. Bello, compatto minoretto, ma hanno cato una valigia, che bello tutto. E noi, Florida, Patterson, la costa della Florida, New Jersey, Ohio, California, boh, chi più rapido ne metta, il segreto di Nesa. New York City, modali qui su, questa parte di Tamarau, San Logo, tutto quanto punto su chi usa musica alla forza, compreso. Ma meno di lui, te, non è stato un problema, no? Devo basta che mi ho fatto reperire, quanto ne chiede? Magari che in disuso devo dare la che mi chiede che mi chiede se c'è la rete che mi sa euro. Compra, te cazzo, ma c'è una cosa di piano, ti compra, sciatto, la conca è mosso, ti compra, boh, non mi hanno detto, che no, che non compri nessuno cazzo. Nel giorno di venditore, sono musicista, sono tutto quanto drogato, ci si fa che non compri nessuno, fa culo. Garantita da anno, mi pare che sia, poi sono tecnico, sono i tecnici specializzati, in Italia non so, si cava una filiale vera e propria scuola di visibilità in loco, però i sottotitoli sono consigliati per telefono, intanto quelli di Cire abilitati sono caduti, i tassi sì, subito la protezione, sono fatto bene. Utilizzano pure SMD, però la parte più rigorosa, sono tutto quanto affetto, fatto con fetti speciali, già copiato bene, così patentosa. Strano, fai da te di urlute, non si comprende bene. Ma a me c'è niente. Ma a brava ovviamente. Ma ti fate ne male la musica, ragazzi, ma non mi vede ne manco. Questo butta pure i cani su paglione. Questo è paglione, apparecchiatore, che fai? Ma lo fate sapere. Comunque c'è 200, boh. Poi ti basta fare tu e te non mi chiede poi la conca con te. Cadete con no, con una delle 5, poi ciò che vedo non funziona più. Che ci passa pure il fisco e ciao.